Euro Reportage. Paese che vai, ricerca che trovi. Le rotte dei ricercatori scientifici in Europa. Di Silvia Bernardi. In Italia è sempre più difficile diventare ricercatori e lavorare stabilmente. Io me ne sono andata proprio per questo, per fare il lavoro per cui ho studiato e lavorato e per avere la possibilità di costruirmi una posizione senza l'aiuto di altre persone. All'estero ho trovato la possibilità di un ambiente di lavoro stimolante e delle condizioni che mi consentono di vivere e mantenermi e farmi una famiglia. Non nascondo però che a volte sia difficile e che se ci fosse una mobilità maggiore vorrei tornare a quella che considero sempre casa mia. Questa non è la storia di un ricercatore che vuole piangersi addosso, che condanna il suo paese perché non gratifica e lascia andare i suoi talenti migliori. Questa è la storia di una ricercatrice che ribadisce delle cose già note, ma mai davvero affrontate in questi anni e con cui l'Europa dovrà fare i conti. Lucia ha 37 anni, ha una laurea in biotecnologie agroindustriali, è cresciuta a Milano e si è specializzata in Inghilterra. Poi è partita per la California, è tornata e ripartita per l'America. Oggi vive e lavora a Londra, nella sede di una multinazionale americana. Lucia è una dei moltissimi ricercatori scientifici che ha cercato rotte alternative, perché dove è cresciuta, formandosi nei centri di altissimo livello, non c'è lavoro. Competenze e talento in valigia, pronti via verso possibilità migliori. Eppure l'Europa è un bacino ricchissimo di eccellenza scientifica, produce un terzo delle conoscenze scientifiche sviluppate a livello mondiale ed occupa una posizione di primo piano in ambiti come la ricerca medica e chimica. Tuttavia si parla di paradosso europeo, perché l'Europa, pur essendo prima nella produzione di pubblicazioni scientifiche rispetto agli Stati Uniti e al Giappone, è all'ultimo posto per numero di brevetti depositati. La vera debolezza europea risiede quindi nell'insufficiente capacità di trasformare la conoscenza tecnologica e scientifica in effettive opportunità imprenditoriali. Come mai? Risponde Anna Tramontano, biochimica, docente dell'Università La Sapienza di Roma e rappresentante del Consiglio Scientifico dell'European Research Council, l'agenzia creata dall'Unione Europea nel 2007 per finanziare i migliori ricercatori di tutto il mondo, per restare, venire o tornare in Europa. Il problema è quello della mobilità, diciamo, delle persone e dei progetti in Europa, perché nonostante se ne parli tanto, poi alla fine ogni paese ha le sue idiosincrasie, la mobilità dei ricercatori da un posto all'altro è complessa, è meno complessa in Europa che se qualcuno che poverino viene fuori dall'Europa, nel qual caso, essendo extracomunitario, passa attraverso la Bossi-Fini, per intendersi. E i piani, diciamo, di sviluppo della carriera dei ricercatori sono abbastanza, paese dipendente. In Italia c'è una specie di tabella preparata dal CUN, dal Consiglio Universitario Nazionale, che cerca di capire, diciamo, di fare delle equipollenze fra le varie posizioni in Europa, però è tutto, insomma, ancora abbastanza agli albori. Il Consiglio Europeo della Ricerca fino ad oggi ha finanziato 4.000 ricercatori, tra i quali circa 300 italiani, con borse molto selettive e sostanziose fino a 3 milioni di euro per progetti di 5 anni di ricerca in tutte le discipline. Eppure, se anche da qui dipende quasi la metà della ricerca scientifica mondiale, non esiste un'Europa della ricerca. Solo il 5% degli investimenti in ricerca nell'Unione Europea è gestito da Bruxelles. Il resto è appannaggio dei singoli stati, che agiscono in autonomia senza avere quindi una vera strategia comunitaria. Gli Stati Uniti, per contro, hanno un'unica struttura di programmazione e finanziamento dei programmi di ricerca, la National Science Foundation. Altrettanto accade in Giappone. In Europa invece ci sono 28 CNR o simili, che hanno un ruolo fondamentale ma non godono di una dimensione europea. In termini reali significa, ad esempio, che un ricercatore spagnolo non può spostare la sua ricerca in un laboratorio più avanzato del suo in Francia o in Germania, portando con sé i finanziamenti ricevuti nel suo paese. La cooperazione tra gli enti di ricerca e la messa in atto di norme comuni potrebbe invece incrementare la competitività europea rispetto al resto del mondo. Un campo innovativo può essere iniziato da un ricercatore se e solo se ci sono dei fondi istituzionali. Perché all'inizio di una nuova diciamo, di una nuova avventura, non si hanno abbastanza credenziali per potersi procurare dei finanziamenti, quindi c'è un tempo di latenza in cui si pensa di iniziare una cosa nuova, moderna, che non si poteva fare fino a ieri, ma se questa non viene supportata inizialmente dal punto di vista istituzionale non si riesce a portarla avanti, quindi in un certo senso c'è un ritardo nell'affrontare nuove tematiche, e questo è vero più o meno certamente in Italia e abbastanza in tutta Europa. Per aumentare l'attrattiva dell'Europa per i migliori talenti, anche europei che lavorano attualmente in altri continenti, serve quindi una Maastricht della ricerca, uno spazio europeo della ricerca. Serve che l'Europa diventi uno spazio dove i ricercatori e le idee possono muoversi liberamente senza ostacoli. Oggi, nonostante decine di documenti, raccomandazioni e buone parole, dalla Carta dei ricercatori al Codice di condotta per istituzioni di ricerca, questa libertà di circolazione è fortemente ostacolata. Il processo di scambio di persone è molto complesso in Europa, è troppo complesso. Alcuni titoli sono riconosciuti, altri non sono riconosciuti. Ogni paese ha una metodologia diversa per arruolare dei ricercatori, quindi tutto questo rende, diciamo, abbastanza complesso spostarsi da un paese all'altro, e certamente ritornare poi è anche peggio, diciamo, perché non tutto viene riconosciuto nel modo corretto. Quindi una legislazione per cui il ricercatore italiano e quello svedese possano scambiarsi in maniera semplice renderebbe tutto più facile. In termini di posti di lavoro, i ricercatori rappresentano in Europa il 2,5% della forza lavoro occupata nelle imprese, contro il 6,7% negli Stati Uniti ed il 6% in Giappone. Ma ci sono anche storie di chi in Europa rimane e vince una borsa di studio del Consiglio Europeo della Ricerca di 3 milioni di euro. Quella del neuroscienziato Giacomo Rizzolatti, lo scopritore dei neuroni a specchio, che ha posto le basi fisiologiche dell'empatia, è una storia tutta europea, anzi di eccellenza tutta italiana, che con quei fondi ha portato a fare importanti passi avanti sullo studio dell'autismo. Negli ultimi 10 anni praticamente si è quasi finito, i fondi universitari sono diventati minimi rispetto agli europei. Un PRIN è 40.000 euro, un fondo europeo, per esempio il mio IRC è 3 milioni. Abbiamo promesso di trovare tutta una serie di nuovi aspetti dell'autismo, e uno che abbiamo recentemente pubblicato è quello che nel bambino autistico ci sono dei deficit nel riconoscimento di quello che un psicanalista ha chiamato forme di vitalità, vitality form, non so, due bambini o due fidanzati, uno passa il giornale all'altro, da come lo passa? Lei già può capire se si vogliono bene o no. Gesti minimi, l'arrabbiatura vera succede una volta ogni tanto, ma tutto il tempo noi, mi passi il giornale, mi dai il caffè, prego, grazie, mi è caduto questo. Ecco, questo tipo di piccolo colloquio continuo si chiama vitality form. Ecco, noi abbiamo visto che dei bambini autistici non capiscono cose molto semplici per un bambino normale, un aspetto che noi abbiamo studiato in questo periodo. Siccome è multidisciplinare quello che stiamo facendo, il nostro gruppo di anatomia ha fatto delle cose molto interessanti sulle connessioni tra la corteccia motoria e prefrontale, per vedere come la nostra intenzione di agire influenza il sistema motorio. Ecco. Mobilità, investimenti, grandi infrastrutture per la ricerca sono i tre poli su quali l'Europa potrà vincere la sfida dell'occupazione di qualità e dell'innovazione. Il nodo da risolvere ora è quello di capire se la svolta per un'Europa della ricerca possa avvenire nell'ambito del quadro normativo vigente o se sia invece opportuno e necessario introdurre nuovi elementi legislativi. Quello che già c'è è il Programma Europeo per la Ricerca e l'Innovazione Horizon 2020, che ha stanziato i primi finanziamenti degli oltre 70 miliardi di euro disponibili per i prossimi 7 anni. Ne parla Patrizia Toia, vicepresidente della Commissione Europea per l'Industria, la Ricerca e l'Energia. Diciamo che l'Unione Europea, con questo bilancio 2014-2020, ha lanciato un grosso programma Horizon per la ricerca, l'iniziativa più grande e più significativa per favorire ricerca, innovazione, promozione della ricerca scientifica in tutti i campi. Questo programma ha tre grossi assi: il primo riguarda la ricerca di base, di eccellenza, il secondo riguarda la leadership industriale, la ricerca per l'industria, il terzo riguarda tutte le sfide sociali del cambiamento climatico, demografico, eccetera, che la società europea dovrà affrontare nei prossimi anni. Cosa importante, a mio avviso, sottolineare? Soprattutto nell'ambito della leadership industriale, ma di tutti gli altri campi, noi dobbiamo valorizzare tutto il patrimonio scientifico che in Europa si produce come scoperte, come ricerche, valorizzarlo per tutte le possibili e potenziali applicazioni, rendere queste potenziali applicazioni reali applicazioni in termini di nuove imprese, per esempio, per servizi nuovi, in termini di nuovi prodotti, in termini di innovazione dei processi industriali, produttivi, eccetera, cioè portare, diciamo, tutto quel trasferimento tecnologico, quell'accesso e quella diffusione dei risultati della ricerca, perché solo così si darà un grande impulso anche alla crescita. Una volta Albert Einstein disse: la scienza è una cosa meravigliosa per chi non deve guadagnarsi da vivere con essa. Oggi avrebbe cambiato idea? Euro Reportage, in collaborazione con Euronet Plus.